Radio 24 Reportage. Expo 2015. Viaggio nei cantieri. Di Maria Chiara Grandis. Per escavatori sono entrati in funzione a ottobre nell'area che ospiterà nel 2015 i padiglioni dell'Expo di Milano. Una superficie di 1.100.000 metri quadrati a nord-ovest del capoluogo lombardo, fra il comune di Milano e quello di Rho, nella zona della nuova fiera cittadina. L'area dove sorgeranno i padiglioni dei 140 paesi previsti a Milano per i 6 mesi dell'esposizione universale è quella delimitata dall'autostrada dei laghi, la A4 e l'alta velocità ferroviaria. Entrando nel cantiere insieme agli addetti ai lavori si nota subito l'attività principale che impegna gli operai in questa prima fase, gli scavi. Per esempio saranno realizzati scavi per circa 120.000 metri cubi, saranno previste in posa 12.000 metri lineari di fognature, acquedotti e drenaggi, calcestruzzi per circa 11.000 metri cubi, di cui ne abbiamo già posati circa 1.800 metri cubi, pari al 16% del totale. Siamo nella parte sud del cantiere e a guidare la visita c'è l'ingegnere Angelo Paris, direttore costruzioni e operazioni della società Expo 2015. I primi lavori da effettuare lungo il perimetro dell'area dove sorgeranno le aree tematiche, quelle dedicate agli eventi e ai servizi, spiega, sono quelli per la rimozione delle interferenze, il che significa modificare alcuni tratti della viabilità stradale che circonda il sito, il corso di alcuni torrenti, intervenire sul sistema fognario ed elettrico, realizzare parcheggi e piazzali. 58 milioni e mezzo di euro il valore economico di questi interventi, 725 giorni la durata dei lavori. La strada perimetrale che realizziamo è una strada che andrà integralmente a sostituire l'attuale Cristina di Belgioioso, che attraversa longitudinalmente il sito espositivo e che sarà chiusa al pubblico a partire dall'inizio del 2013. Sotto la viabilità perimetrale saranno realizzati sistemi di drenaggio delle acque stradali, sarà realizzata sempre in sede perimetrale la rete dati di telecomunicazioni. In quest'area, a fianco della linea dell'alta velocità ferroviaria della tratta Milano-Torino, nel 2015 ci saranno alcuni dei padiglioni espositivi e l'Open Air Theater, lo spazio dedicato agli eventi all'aperto, come concerti e spettacoli, con una capienza di 9.000 persone. In totale, per preparare l'area dove saranno allestiti i padiglioni di Expo 2015, si prevede la realizzazione di 480.000 metri cubi di scavi, l'utilizzo di 110.000 metri cubi di calcestruzzo, 6.500 tonnellate di acciaio, 200.000 metri quadrati di asfalto, 4 sottopassi, oltre 3.300 pali illuminazione, ma anche piantumazioni su 50.000 metri quadrati. Ad andare avanti e uno per volta. Ci spostiamo nella zona nord del sito espositivo, di fianco all'autostrada Milano-Varese. Qui sarà realizzata una strada a doppia corsia che a partire dai primi mesi del 2013 sostituirà quella attuale, lo racconta Angelo Paris, direttore dei lavori. In affiancamento al tratto di viabilità che andremo a realizzare è prevista la deviazione di due torrenti, il Guisa e il Cavo Viviani, che attualmente attraversano in maniera longitudinale da nord a sud il sito espositivo. Siamo in un'area dove sorgerà, rispetto al master plan definitivo, la cosiddetta Lake Arena, un bacino d'acqua di circa 6.000 metri quadri con una profondità di circa 75 centimetri, che sarà circondato da gradinate e da spazi verdi fruibili da parte dei visitatori, sul quale avverranno eventi. I lavori per la rimozione delle interferenze termineranno 3 mesi prima dell'inaugurazione dell'Expo, che si aprirà il 1 maggio 2015 per chiudersi il 31 di ottobre. Nel frattempo quest'estate partiranno quelli per la realizzazione della piastra espositiva, e cioè dell'area dove saranno costruiti i padiglioni dei singoli paesi. La piastra includerà anche un canale, percorsi pedonali, aree verdi. Quando potremo vedere, secondo lei, il primo padiglione ultimato? Il primo padiglione dei paesi, intende, sarà il padiglione della Svizzera. Sapete che la Svizzera è il padiglione più avanzato, proprio vicino all'area del Padiglione Italia, quindi proprio qui a pochi metri di dove ci troviamo, e quindi avrà a disposizione l'area a partire dal settembre-ottobre del prossimo anno, sulla quale potranno cominciare i cantieri di realizzazione del sito. Voi state lavorando anche per il dopo, ci spiegava il 56% dell'area sarà verde, come sarà quest'area? Si stanno facendo diverse ipotesi, più orientate alla cittadella dello sport piuttosto che alla cittadella tecnologica, però in ogni caso con una costante di vivibilità e di architettura light e a servizio, diciamo così, delle comunità, come vuole essere anche l'evento Expo. Responsabile della sicurezza sul cantiere è l'ingegnere Comini. Attualmente siamo intorno al centinaio, 120, perché non abbiamo ancora il regime pieno dell'attività, però ormai siamo, direi, sul 70% dei fronti di lavoro e dobbiamo risolvere, credo, nell'arco di un mese le interferenze più grandi. Tutte queste fasi di lavoro che sembra non rendano, in effetti, perché la predisposizione di qualcosa in parallelo non si vede ancora finché entra in funzione. E qui c'è la pazienza di questi primi mesi di lavoro, però adesso siamo a regime, siamo confidenti di recuperare quell'attimo di ritardo che si dice, ma è la fase iniziale di un cantiere. In genere i lavori sono seguono la curva S, che parte piatta e poi sale di produzione nel tempo. Gli operai impiegati qui sentono un po' la responsabilità di lavorare per un evento che ha una grande rilevanza internazionale, può essere anche, si dice, volano di crescita economica per il paese? Assolutamente sì, e poi c'è un altro elemento di spinta indiscutibile, purtroppo non governabile, che è la scadenza, nel senso che questa è una grandissima opera pubblica, forse una delle più grandi in corso di costruzione in questo momento in Italia, che però ha una scadenza obbligatoria. Noi per il 1° maggio dobbiamo essere pronti per dare avvio all'evento, e quindi non è tollerabile neanche un giorno di ritardo. Questi sono tutti consapevoli, per cui ci si deve organizzare per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Entro la fine di aprile 2015 saranno completati tutti i padiglioni. Il più grande è il numero 0, che servirà come ingresso all'Expo per il 30% dei 140.000 visitatori attesi ogni giorno. Il padiglione 0 introdurrà i filoni narrativi del tema dell'esposizione di Milano: nutrire il pianeta, energia per la vita. Le altre aree tematiche comprendono il Future Food District, dove si svolgerà il tema dell'alimentazione del terzo millennio, anche attraverso installazioni come il supermarket, il ristorante e la casa del futuro. Lo spiega l'amministratore delegato della società Expo 2015, Giuseppe Sala, masterplan alla mano. Il secondo padiglione tematico è un padiglione da 2500 metri quadrati, si chiama Food in Art. Oltre a quel padiglione, però, attraverso un concorso a livello internazionale, noi dissemineremo il sito di opere d'arte di nuova creazione, sempre con una base tematica, che tra l'altro anche queste saranno poi un lascito per la città, perché dopo la chiusura dell'Expo saranno a disposizione della città. Ci sarà anche un children park per offrire un viaggio nel mondo delle favole ai più piccoli, con allestimenti scenografici che porteranno nelle case dei personaggi, dove saranno riprodotti suoni e odori. La particolarità dell'area tematica è costituita dallo spazio dedicato alla biodiversità. Ancora Sala. La nostra via è quella di ricostruire dei paesaggi sempre mostrando le biodiversità, non in una serra, non in un ambiente chiuso, in parte ricostruirle dal vero, e quindi portando parte e colture dal vero, e in parte attraverso le cosiddette illustrazioni tassonomiche. Il nostro paese avrà il Palazzo e la Piazza Italia per le attività istituzionali e per la grande mostra sul tema dell'alimentazione, dove troveranno spazio anche le eccellenze regionali. Dopo rimarrà certamente il Palazzo Italia, certamente l'Open Air Theater, la Lake Arena, potranno rimanere padiglioni dei paesi, ma è chiaro che a quel punto l'amministrazione pubblica italiana dovrà fare accordi con i singoli paesi, come i cinesi hanno fatto con l'Italia a Shanghai, perché il padiglione italiano è rimasto. La novità dell'Expo di Milano sono i cluster, cioè gli spazi espositivi che raggrupperanno i paesi più piccoli, non in base alla posizione geografica, bensì secondo temi. I cluster sono uno sul riso, poi caffè, cacao, legumi, olio, oli, semi e frutta, le spezie, i cereali e i tuberi. Questo ci porta a tre grandi vantaggi. Il primo è che il cluster, pensate a quello del caffè, è attrattivo per il visitatore. Il secondo è aiutiamo i paesi, aiutiamo la loro economia, rinforziamo il loro messaggio sulla loro tradizione e via discorrendo, e in alcuni casi può permetterci anche di far avvicinare delle imprese che, essendo tematiche, possono avere interesse a partecipare alla costruzione del progetto. mille giorni dall'evento, a Milano si lavora per il 1 maggio 2015, giorno dell'inaugurazione della sua seconda esposizione universale dopo quella del 1906. Un investimento di circa 3 miliardi di euro in totale, tra fondi pubblici, privati e quelli investiti dai paesi partecipanti. L'obiettivo è quello di raccogliere in Italia 20 milioni di visitatori da tutto il mondo, per un indotto turistico stimato intorno ai 5 miliardi di euro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.